Avvocato Vittorio Bonaguidi di Telefono Blu, a lei un commento. Brevissimamente, nello stile della vostra trasmissione. Qui è un problema ovviamente di primo capitolo, customer satisfaction, customer service, e quindi qui il problema c'è, il problema è evidente, il passeggero non è riuscito a contattare la compagnia aerea ed è un problema serio, grave. Purtroppo mi dispiace dirlo e non vuole essere assolutamente un accanimento, un infierire contro EasyJet che lavora seriamente come le altre compagnie, però certo. Ci sono altre situazioni che come Telefono Blu possiamo comunicare di nostri assistiti che hanno proprio con EasyJet avuto un problema similare, mi sto riferendo esclusivamente al capitolo customer service, quindi ha una grossissima difficoltà a contattare nel momento del disagio, nel momento del disservizio, che dir si voglia, la compagnia aerea. Quindi ecco, questo è il primo capitolo. Certo. Il secondo capitolo è quello conosciuto secondo la carta dei diritti del passeggero, quindi il problema della cancellazione del volo. Noi sappiamo bene, o comunque lo diciamo a chiare lettere, l'articolo 5 prevede che al verificarsi dell'evento della cancellazione del volo ci debba essere sempre un rimborso del biglietto o un'accettazione per un volo alternativo, pasti e bevande e quant'altro di spese per caso di assistenza, appunto per rimanere in loco presso gli aeroporti, certo, dei passeggeri. E comunque invece non sempre, ad esempio in caso di forza maggiore, non c'è la parte relativa all'indennizzo. Bene.